Questa sera iniziamo la terza parte del Credo, Credo nello Spirito Santo. Sappiamo che lo Spirito Santo è una persona divina come il Padre e come il Cristo, Figlio di Dio. Quando si parla del Padre e del Figlio, noi, anche se volete un po' maldestramente, abbiamo dei riferimenti qui in terra, sappiamo chi è un padre, è uno che ha fatto un figlio, si dice per esempio quello lì è un padre perché ha dei figli, si sa che cos'è un figlio, chi è un figlio, è uno nato da un padre che gli vuol bene, gli ha dato la vita, vede, provvede, si prende cura, abbiamo le nostre cognizioni, riusciamo anche a fantasticare una faccia da papà e una faccia da figlio, e farsi un'immagine, una faccia dello Spirito Santo è un po' più difficile. Allora cosa diciamo? Noi Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo li conosciamo non direttamente come sono loro tre, ma da quello che hanno fatto per noi. Il Padre lo conosciamo perché ci ha mandato il suo Figlio non per giudicare il mondo ma per salvarlo. Il Figlio è venuto a dire: chi vede me ha visto il Padre o vede il Padre. Il Padre vi ama, chiamatelo papà, eccetera. E noi da quello che ci hanno detto, da quello che hanno fatto, abbiamo una conoscenza del Padre e del Figlio. La stessa cosa noi dobbiamo fare parlando dello Spirito Santo. Non parliamo dello Spirito Santo in sé stesso, ma per come lo conosciamo, per gli effetti che ha prodotto, per quello che ha fatto nei confronti dell'umanità nella storia della salvezza. Allora sappiamo, ed è la verità fondamentale, che Dio è amore. Che è un amore perché è amore perché è una pluralità di persone, perché se fosse una persona sola Dio non sarebbe amore, sarebbe un egoista perché amerebbe se stesso. Ecco la fortuna dei cristiani che conoscono il vero Dio amore, che è rapporto di persone, altruismo dell'uno verso l'altro, dono totale del Padre che dà la sua vita al Figlio e del Figlio che dà, riconsegna la sua vita al Padre. E questo, diciamo per capirci, movimento di amore dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre è chiamato lo Spirito Santo. Spirito Santo, Ruach Yahweh, Pneuma, Spiritus, Spirito come diciamo noi, vuol dire respiro, vuol dire soffio, vuol dire vento. Nella Bibbia lo Spirito Santo è presentato spessissime volte come un vento impetuoso, una forza d'amore travolgente, ripeto, una forza d'amore, non una forza distruttiva, e un vortice che fa mulinello con tutti quelli che incontra. Avrete visto certi forme di ballo, certe forme di ballo anche antico, che le persone roteano e tenendosi, abbracciandosi o tenendosi per mano. Bene, ci tira dentro nella danza dell'amore di Dio. E lo Spirito Santo è chiamato dai teologi, quelli antichi ovviamente, osculum patris et fili, il bacio di Dio Padre nei confronti di suo Figlio Gesù Cristo e il bacio del Figlio, il bacio di queste due persone, ossia l'amore dell'uno per l'altro. Cosa possiamo dire noi per riuscire a levarci di testa un interrogativo? Ma io ce l'ho dentro o non ce l'ho dentro lo Spirito Santo? Oppure ho dentro lo spirito immondo, ossia il demonio, che è il contrario dello Spirito Santo? Come si fa a saperlo? Ma abbastanza facile. per la verità, cose complicate nella religione non ce ne sono. Di solito le complicano quelli che non hanno altro da fare parlando difficile o che non hanno capito elementarmente l'ABC della cosa. C'è San Paolo che ci dice chiaramente: lo Spirito Santo lo si conosce dai suoi effetti, da quello che produce. Ed ecco allora che vi leggo un brano preso dalla lettera di Paolo ai Galati al capitolo 5, dove Paolo scrive: il frutto dello Spirito Santo è. Il frutto vuol dire ciò che lui produce. E allora ognuno di noi legge le cose, le realtà che produce e dice: sì sì, io queste cose almeno come frutti ancora un po' acerbi, ma ce le ho, ce le ho. E allora dice: c'è lo Spirito Santo che agisce dentro di te. Se uno dice: di questa mercanzia io non ce n'ho neanche uno, è il caso che ci ripensi, che vada a fare magari un po' di direzione spirituale da un prete, che si metta un po' a pregare, a leggere, a cercare di trovare una risposta. Il frutto dello Spirito è, state attenti alla lista, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose, dice ancora San Paolo, non c'è legge. Chi fa queste cose al di sopra di tutti i comandamenti di Dio, perché li osserva e li sorpassa, li supera di molto. Ora, quelli che sono in Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri, e quindi hanno crocifisso la loro cattiveria, quella pianta cattiva che c'è dentro, che fa frutti cattivi. Ricordate che il Vangelo usa anche questi termini. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Allora, io sono cristiano, spero, credo nello Spirito Santo, spero che lo Spirito Santo sia dentro di me ed agisca. Allora, io manifesto questa presenza dello Spirito attraverso le opere dell'amore, della gioia, della pace, della pazienza, della benevolenza, che è il voler bene, la bontà, la fedeltà a Dio, a uno sposo, a una sposa, a una vocazione, alla parola data, tante cose, la fedeltà, la mitezza, che vuol dire essere come Cristo, mite e umile di cuore, e il dominio di sé, che vuol dire lo Spirito Santo ti dà la capacità di prendere in mano la tua vita e di comandarla, di saper comandare le tue passioni sregolate, alla tua ira, alla tua sessualità, quando va fuori da quelli che sono i giusti confini della volontà di Dio, la bramosia di denaro e tante altre cose. Allora è lo Spirito Santo che ti dà la capacità di amare, e come vedete la figlia primogenita dell'amore è la gioia cristiana. Mi fermo solo su questo aspetto che ho già detto altre volte qui da voi. Tutti noi cerchiamo la gioia. Qualunque cosa si fa è per essere felici. Diceva Pascal, anche l'uomo che si sta insaponando la corda per impiccarsi, si impicca convinto che quando sarà morto sarà più felice di adesso, diversamente non si impiccherebbe. Ecco allora, da dove viene la gioia? La gioia nasce dall'amore. Dove c'è amore, quello dello Spirito Santo, non quello camuffato d'amore ma che è egoismo, dove c'è l'amore c'è la gioia, in uguale misura di Dio, nostro amore, eterno amore, diciamo anche, e nostra eterna felicità. Uno è tanto contento quanto ama ed è amato. e se ama moltissimo è contentissimo, se ama poco è poco contento, se non ama non è contento. Detto questo, si farebbe anche presto ad aggiustare tutte le iniziative cretine, a dir poco, che ci sono sempre state nel mondo, nella nostra società. Uno crede di essere felice se fa l'egoista, se cerca l'egoismo. Per cui uno dice: adesso stasera vado fuori, mangio, bevo, mi ubriaco, vomito, mi pasticco e corro con la macchina per provare il brivido, vabbè, poi torno a casa. Se torni ti metti lì, se hai ancora un po' di cervello funzionante, dici: mi faccio schifo, oh. Allora come faccio per essere felice? Piantala, vai in una corsia d'ospedale mezz'ora invece di andare una nottata in discoteca. Dai una mano, un sorriso, una parola, porta qualcosa ai degenti, vieni a casa che sei contento come una Pasqua, anche se hai 10 anni, 15 anni e 20 anni. Le altre sono tutte delle gran balle che non danno la gioia. Spero che almeno voi, che non siete più ventenni, siate convinti, diversamente datevi una mossa e ditelo anche ai figli. La gioia è tanto quanto, fate un'equazione, è l'amore. Amore 100, gioia 100, amore 10, gioia 10, amore 0, gioia 0. Amore sotto 0, gioia sotto 0. Lo dice anche San Tommaso d'Aquino, dice: la gioia è un'emanazione dello Spirito Santo. È detto tutto. Allora, lo Spirito Santo è presente in noi e produce questo frutto. Noi forse vorremmo dire questi frutti, visto che c'è una lista di cose. Uno si prende in mano il testo e si esamina, dice: sì, io di queste cose qui veramente non ci sono, o di queste cose ne ho poche. Preghi lo Spirito Santo perché agisca in te e tu lo lasci agire e avrai questi bei risultati, che vuol dire poi una vita veramente umana, veramente felice, veramente santa. Cos'è venuto a fare lo Spirito Santo sulla terra? È venuto per dare a noi, alla Chiesa, al mondo, la forza, la dynamis, come dice il testo, la forza di Dio. E quindi bisogna anche dire: se ho dentro lo Spirito Santo, la devo finire di piangermi addosso, perché faccio la figura del cretino se mi ascolta un cristiano un po' se non ce la faccio. Quante volte l'avrete sentito dire anche in casa vostra, dai figli: non ce la faccio. Sono frasi che non hanno nessun motivo di essere dette, perché con la potenza dello Spirito Santo che noi abbiamo dentro, abbiamo la stessa potenza di amare e di risolvere i problemi che ha avuto Gesù Cristo, il quale non ha mai detto: non ce la faccio. È che noi, pur avendo dentro un motore, che è lo Spirito Santo, che è lo stesso motore che muove Dio, e noi abbiamo forse questo motore accantonato, non abbiamo acceso il motore, insomma, viviamo camminando sulle nostre gambe quando potremmo volare. Dice anche l'imitazione di Cristo: chi ama vola. Il Cantico dei Cantici ci presenta l'innamorato che va verso la sua ragazza come un cerbiatto che salta di valle in valle, di colle in colle, di monte in monte, toccando appena appena con lo zoccolo per lanciarsi a scavalcare l'altra valle. Chi ama vola. Noi alle volte trasciniamo le scarpe, a dire volte, qualche volta andiamo a quattro zampe. Non è possibile, non è da cristiani, perché noi abbiamo dentro la stessa potenza di Dio. Quando io mi azzardo a spiegare i sacramenti e mi dicono: dica qualcosa sulla cresima, ma quel che dico vale anche per il battesimo e gli altri sacramenti. Dico: la cresima è un trapianto cardiaco. L'aveva detto Dio tramite il profeta Ezechiele ai capitoli 36 e 37. lo dovreste sapere a memoria, perché è anche un canto che si usa cantare in chiesa. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, che è lo Spirito Santo. Toglierò dal vostro petto il cuore di pietra, di sasso, ossia crudele, cattivo, insensibile, incapace d'amare, e vi metterò dentro un cuore sensibile, un cuore di carne come quello di Cristo. Allora sì, riuscirete a mettere in pratica i miei comandamenti e osservare le mie leggi e i miei statuti. E allora, come conseguenza, io sarò davvero il vostro Dio, accolto da voi, e voi sarete il mio popolo, non solo di nome, ma di fatto, perché ci ameremo e collaboreremo intensamente. Noi la cresima l'abbiamo ricevuta, ci è stato tirato fuori il nostro cuore umano, che, come dice anche il Vangelo, è crudele, è egoista, è cattivo, guardiamoci attorno, ne abbiamo le prove. E al posto di quello ci è stato messo dentro, trapiantato, il cuore stesso di Dio, che è lo Spirito Santo. Se potessimo fare un esempio di cilindrate, noi abbiamo la stessa cilindrata del Padre Eterno di Gesù Cristo, la stessa cilindrata, la stessa potenza d'amore. Bisogna rendersene conto, coscientizzarsi di queste cose, se no si vive da pidocchiosi, da gente che frigna e si piange addosso, quando ha ricevuto in sé e ha in sé la presenza e del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ossia ha dentro Dio in persona, che è capace di lanciarci a delle velocità e a delle altezze insospettabili. Abbiamo dentro Dio, e dove c'è Dio c'è il paradiso, dentro di noi c'è il paradiso. È una vita esplosiva, una vita che se riuscissimo a capirla probabilmente moriremmo di infarto. Un giorno la beata Angela da Foligno, durante una visione, disse a Cristo: io so che tu sei dentro di me e che stai facendo qualche cosa di bello, fammi vedere che cosa stai facendo dentro di me. E Gesù Cristo le risponde: no Angela, non ti faccio vedere proprio niente, se no moriresti per la gioia. La fede serve per capire, sapere, vivere in compagnia con queste realtà, la Trinità, queste tre sante persone, e sprigionare una potenza che è quella di Dio. Ce l'abbiamo, ma sappiamo d'averla. Se qualcuno di voi qualche mese fa o l'anno scorso mi avesse infilato dentro l'assegno di 1 miliardo di euro in questo portafoglio, senza dirmi niente, per non apparire, per farmi un'improvvisata, e io non l'avessi ancora visto, io sarei vissuto in questi anni da barbone o a contare anche le monetine, perché ne ho pochi, e quel miliardo è lì, ancora come prima, totalmente da utilizzare, non sapevo di averlo. I cristiani hanno dentro i miliardi di Dio in persona e vivono contando i centesimi dell'euro, perché non sanno di avere dentro di sé la potenza di Dio, la ricchezza di Dio, la capacità di Dio di amare come Dio ama e di avere una gioia che effettivamente dovrebbe farci uscire di cervello, se riuscissimo a capire a fondo la presenza di Dio dentro di noi. Concludo subito su quanto questo poco detto sullo Spirito Santo, perché altri argomenti ci aspettano. Leggo, tanto per darmi un contegno, leggo quello che scriveva Victor Hugo nel suo romanzo I Miserabili. La terra è una grossa bestia. Ci si affatica, ci si avvilisce, ci si prostituisce, ci si uccide e ci si fa l'abitudine. Ci si fa l'abitudine e ci si dichiara sconfitti in partenza. Facciamo qualcosa contro la prostituzione, ma lascia perdere, e l'affare più vecchio, il mestiere più vecchio del mondo, ma va a dormire, che tanto non fare l'untorello. Cose che ho sentito dire da un vescovo personalmente. Ecco, allora solo lo Spirito Santo ci fa capire e credere che il regno di Dio non è al di là, quando andremo in paradiso ci daranno una lavatina perché veniamo fuori dal pantano. Il regno di Dio è qui e si va in paradiso rendendo più abitabile la terra, e la potenza per andare contro queste forze del male ce l'abbiamo, è la potenza di Dio che vive dentro di noi. Allora, la fraternità umana è possibile non fare più le guerre, è possibile anche togliere di mezzo la prostituzione, tutto il furto, tutte le miserie, tutto è possibile. Ma se in partenza diciamo a tempo perso, vado a dormire, non sarà mai possibile niente. Ma lo diciamo perché non sappiamo la potenza che abbiamo dentro di noi, la potenza dello Spirito Santo. Gesù Cristo l'ha detto, riceverete la potenza di Dio che discende dall'alto e sarete testimoni di me fino agli estremi confini della terra. Ma sai, ci spareranno addosso, voi andate che ci penso io. Lo dico perché oggi è la memoria anche dei martiri, martiri nostri recenti. Oh, poverino, è morto ammazzato. Beh, allora dite anche Gesù Cristo, poverino, è morto ammazzato. Il nostro capo è la nostra testa, il nostro Dio Cristo è un martire. E dicono i documenti anche dell'ultimo concilio, quando Dio regala alla Chiesa dei figli martiri, fa il più grande dono che può farle, perché gli regala le regala degli uomini che si sono realizzati come Cristo, sposo della Chiesa. Allora, diciamo pure, tanto per tirare dentro la cronaca, il nostro mondo continua a essere costruito sull'odio, mentre lo Spirito vuole ricostruirlo sull'amore. La fraternità umana è possibile. Possiamo far uscire il nostro mondo dalla sua logica fratricida e da quella triade diabolica, la nominiamo subito, che si chiama uccidere, mentire, giudicare, che vuol dire giudicare, condannare. I cristiani devono essere in prima fila fra coloro che ricostruiscono il mondo sull'amore, e il vero nome di questo amore, che non è un sentimentino o qualche cosa così di illusorio, il nome dell'amore è Spirito Santo, è una persona, non è un sentimento o un'arietta che va e viene. Noi dobbiamo, con l'aiuto di Dio, ricostruire il mondo sull'amore che ha la A maiuscola, se volete, che si chiama Padre, Figlio e Spirito Santo. Vogliamo dire qualcosa anche sulla Santa Chiesa Cattolica. Allora, la Chiesa esiste se non altro perché anche un ateo può dire, ma sì, ci sono cristiani, parrocchie, c'è un Papa, ci sono in giro vescovi, insomma, si vede come esiste un partito perché c'è il capo e c'ha la sede di partito. E cosa dobbiamo dire noi della Chiesa Cattolica, della nostra diocesi? I cristiani per primi, e poi gli altri non sono da meno, bersagliano la Chiesa, e io sono contentissimo che lo facciano. Sulla Chiesa piovono critiche dall'esterno e dall'interno. Cosa dicono? Tante cose, ne diciamo alcune così brevemente. La Chiesa è un ostacolo alla libertà, all'inventiva, al progresso scientifico, medico. In essa è già tutto fatto, tutto scritto, non c'è più nulla da scoprire, da fare. Se si vuol creare qualcosa di nuovo, bisogna uscire dalla Chiesa. È troppo madre, ci tratta da neonati, da minorenni, peggio da minorati. Per andare alla comunione devo passargli alla grata il confessionale, il prete mi dice tu sì, tu no, perché dice, avrò anch'io una mia coscienza. È un'istituzione di altri tempi, idee del Medioevo, linguaggio che non si capisce. Guardate che non tutte le critiche sono sbagliate, effettivamente il linguaggio che troviamo quando andiamo in chiesa non è sempre, non corrisponde neanche al vocabolario italiano, dobbiamo essere sinceri. riti, paludamenti da Medioevo, troppo lontana dal nostro modo di pensare, di sentire, di pregare, di amare, vado a fare il buddista. È triste, paurosa, state attenti, non toccate, pericolo di morte, come se fossimo sempre a contatto con l'alta tensione. O se tocchi vai dritto all'inferno, giuridica, moralistica, autoritaria, raccontatene quanto vi pare. È infallibile come una vecchia zitella che ha sempre ragione. Alla fine un papa o un vescovo, no, voi avete detto la vostra, l'ultima è la mia ed è quella giusta. E chiude il discorso. Allora, la Chiesa ha dei difetti, i nostri difetti, i miei, insieme con i vostri e quelli degli altri. Quindi è criticabile, criticabilissima per l'aspetto umano che siamo noi. Se ci fanno delle critiche, ascoltiamole, perché è più amico uno che ti fa una critica per migliorarti che uno che ti fa degli elogi quando meriteresti delle critiche. Però facciamo una cosa, così mettiamo a posto almeno i cristiani che stanno dentro. Leggo quello che scrive Gilbert Sesbron, che è un romanziere francese. Parliamo della Chiesa quasi alla stregua di quando diciamo la gente, dimenticandoci che siamo anche noi Chiesa, quindi noi preti, vescovi, fedeli, le suore anche sì. Se vogliamo mettere sotto accusa la Chiesa, che sui banchi degli accusati non siedano solo vescovi, teologi, liturgisti, ma anche tutti quei fedeli così poco fedeli, che sono anche i laici, anche loro sono Chiesa, su tutti allora, sul banco degli imputati. Dobbiamo ammettere di aver indotto il mondo a credere che le nostre mani giunte, pregando, pregando e pregando, erano il contrario di quelle aperte, quelle attive, le mani tese, tanto per chiamare, laboriose, quelle che hanno fatto la carità, che hanno tirato su da terra tutte le persone colpite dalle circostanze della vita. Se i cristiani avessero tenuto conto del terribile avvertimento di San Paolo, con Dio non si scherza, se non avessero così a lungo trescato con il denaro, col potere, sarebbero meno contestati e Cristo meno contestato. Il fatto che oggi la mappa della cristianità coincida con quei paesi ricchi, voi guardate il mappamondo dove ci sono i cristiani, lì i paesi sono ricchi, dove non ci sono i cristiani, lì i paesi sono poveri, e dice, vuol dire che lavorano, questo è vero, è una religione che ci spinge al lavoro, ma forse la religione ci diceva anche di aiutare un po' di più quelli che arrancavano e facevano fatica, e forse non l'abbiamo fatto a sufficienza. Il fatto che la cristianità coincida con i paesi ricchi è una prova lampante che l'Occidente è fatto per il regno della terra, non per il regno dei cieli. Che umiliazione per noi e per Dio. Voi cercate il regno dei cieli, ma io ho l'impressione che mettete radici qui per terra e come il regno dei cieli può aspettare? È un romanziere, vale quel che vale, non è un testo teologico. Allora tutte le critiche, anche asprissime, benvengano, ascoltiamole senza essere permalosi. Se sono giuste, correggiamoci perché dobbiamo convertirci, credere al Vangelo, migliorare i nostri comportamenti. Questo è chiaro. Bene, come fa questa comunità cristiana a stare insieme? Abbiamo tanti motivi di divisioni, di frazioni, di frizioni. E alle volte si capisce anche la difficoltà di un'intesa tra marito e moglie, genitori e figli, che sono una piccola chiesa di poche persone. Immaginatevi quando si mettono insieme migliaia o milioni di persone. È la Eucaristia che fa la Chiesa, ossia per mettere insieme questi cristiani così diversi bisogna celebrare sanamente e santamente delle belle messe capite e vissute dalla prima all'ultima parola, con delle comunioni in cui Cristo, che entra dentro di noi, ci mette in sintonia con Lui e quindi di conseguenza anche in sintonia tra di noi. L'ho ripetuta varie volte e la ripeto: noi quando preghiamo, diciamo alla messa, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo, ci faccia diventare una sola persona, Cristo. Allora lì si è in sintonia perfetta. Dicono degli scrittori bravi, importanti, che la Chiesa è il Cristo diffuso e comunicato, il Cristo presente in forma di comunità, è il Cristo presente in ogni cristiano. Ecco dov'è l'unità della Chiesa. Siamo tutti uno in Cristo. Allora la Chiesa funziona. E quando è che non siamo uno con Cristo? Quando andiamo per i fatti nostri, quando viviamo sistematicamente nel peccato e rifiutiamo Cristo e il suo Vangelo. Qualcuno dice: ma siamo presentabili noi come Chiesa davanti al mondo perché Cristo sia credibile? Ricordate la preghiera di Gesù nel Vangelo di San Giovanni: Padre, fa che i miei cristiani siano una cosa sola tra di loro, con me e con te, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, che mi hai mandato tu. L'unico mandato da Dio, suo Figlio, è quel tale che è venuto e ha dato vita alla Chiesa, a questa comunità di cristiani. E la gente crederà che è venuto davvero Dio in terra, perché è riuscito a mettere insieme questa comunità, che veramente sono una sola Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Oh mamma, come siamo conciati oggi, cattolici, ortodossi, protestanti, anglicani. Se andate in America ci sono più di 2000 chiese autonome, ognuna per i fatti suoi, che fanno razza per proprio conto. Diceva il Papa Paolo VI, questa situazione rende difficile per quelli che sono fuori dalla Chiesa credere in Cristo, perché aveva messo come condizione della sua credibilità il fatto che la sua Chiesa sarebbe stata una, unita. Ma perché deve essere una? Perché ha un solo Dio, un solo Dio, un solo Padre, un solo Signore, Sposo, proprietario, che è Gesù Cristo. Uno solo, deve essere una perché appartiene al Dio unico. Deve essere santa, santa vuol dire appartiene a Dio, è proprietà di Dio. E allora incominciamo noi a credere che i peccati peggiori sono i peccati contro l'unità tra di noi. Io chiudo con te, io non ti perdono, io non ti amo. Le grandi divisioni sono la somma di queste piccole divisioni, e dobbiamo chiederci: ma io sono aperto a tutti, amo tutti, anche i nemici, perdono tutti, accolgo tutti. Allora siamo dentro nella volontà di Dio riguardo alla Chiesa. Se faccio vita per conto mio, sono più quelli che escludo dal mio amore, dal mio cervello, dal mio ricordo, dalla mia preghiera, più quelli che escludo che quelli che includo. Allora io sono uno che crea divisione nella Chiesa. Se parleremo del peccato questa sera, perché c'è anche, credo, la remissione dei peccati, diremo che il peccato è prima di tutto divisione. Divisione da Dio, divisione tra marito e moglie, divisione tra fratello e fratello, divisione tra tribù, popoli, tutti in contrasto gli uni contro gli altri. È la storia del Genesi dopo il peccato di Adamo e di Eva. Allora, se il peccato è divisione, lo Spirito Santo è venuto per creare unione Difatti si dice nelle preghiere, dice, ma come sono stufo di andare a messa, l'è sempre quella, per Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità che è lo Spirito Santo, è Lui l'unità del Padre e del Figlio, è Lui l'unità degli uomini, è lo Spirito Santo che crea unità tra le persone, che è il contrario della divisione, che è il peccato. La divisione sempre operata dal diavolo, questo nome è significativo, diabolos dal verbo diaballo in greco vuol dire colui che crea divisione, ossia fa il mestiere esattamente opposto di quello dello Spirito Santo che crea unione. E allora dobbiamo anche chiederci sbrigativamente, ma io creo divisione o creo unione? Anche qui tu puoi tirare le tue conclusioni. Se io sono uno che crea divisione in tutti i modi, in tutte le maniere, sono uno che lavora con il diavolo e per il diavolo. Creo unità, pace, gioia, apertura, benevolenza, accoglienza. Io lavoro con lo Spirito Santo. Chi crea divisione lavora per il diavolo. È l'opera del diavolo. Chi crea unione, unità tra di noi e con Dio è uno che lavora con lo Spirito Santo. Della Chiesa si possono dire tante cose, ma tante. E le diciamo passando al titolo seguente, che è Credo la comunione dei santi. È un altro modo di parlare della Chiesa, quindi credo la Chiesa o credo la comunione dei santi, praticamente lì è un aspetto diverso, un modo diverso di trattare l'argomento. Allora partiamo dal progetto di Dio, il quale ha creato sulla terra uomini e donne senza frontiere, ha creato un pianeta senza frontiere, quelle le abbiamo fatte noi. E quando le tolgono le frontiere vuol dire che è all'opera nuovamente lo Spirito Santo. È chiaro che poi gli uomini quando si mettono insieme togliendo le frontiere diventano forti e incominciano a far pazzie perché vanno a pestare gli altri. Guardate, non so, la potenza di questi stati confederali. In Europa si incomincia a fare unità, voi mi direte quanto è opera dello Spirito Santo e quanto è voglia di diventare potenti, di avere una moneta che, di avere un grosso peso, di difendersi dalle future guerre, dalle aggressioni tra continenti. Oh Gesù, pensateci voi che avete un po' più di tempo. Allora tutta l'umanità è come un'immensa foresta nel progetto di Dio, dove tutti gli alberi hanno la loro radice nel cuore della Trinità, tutti amati da Dio, tutti hanno un'unica radice e quindi andiamo d'accordo perché questo è il progetto di Dio. Che cos'è questa comunione dei santi allora? È la ripresa in termini diversi di quello che diciamo la Santa Chiesa, ma con lo scopo di sottolineare i rapporti che intercorrono fra le membra dell'unico corpo, tra i tralci dell'unica vite, se ricordate il Vangelo di Giovanni al capitolo 15. Allora, communio sanctorum, per qualcuno di voi che ha ancora qualche ricordo del latino, solitamente noi l'abbiamo capito come comunione dei santi, degli uomini santi, dicendo uomini si intendevano anche le donne. È verissimo. I santi cristiani devono vivere tra di loro uniti nell'amore, ma sanctorum è anche un neutro, è la comunione delle cose sante ed è un aspetto forse non sempre trattato, ma è altrettanto vero, ossia nella Chiesa c'è portafoglio comune, cassa comune. Cosa c'è nella cassa? Diciamolo subito a scanso di equivoci. Ci sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che continuano a finanziare e a rifinanziare questa cassa comune, perché noi spesso, ma non vogliamo esasperare, essere negativi, noi in questa cassa cacciamo dentro più debiti che capitali. pensate i nostri peccati, ho molto peccato. D'altra parte, cosa fanno i figli a casa vostra? Vi portano a casa dei debiti, c'è da pagare la tassa, l'iscrizione qui, la piscina, e ho bisogno. I figli cosa portano? Debiti? Mi sembra. Chi è che finanzia? Sei sempre tu e tua moglie, caccia dentro, caccia dentro, caccia dentro. Beh, non mi meraviglio più di tanto se anche nella famiglia di Dio deve essere il Padre Eterno e Gesù Cristo, lo Spirito Santo a finanziare e noi invece consumiamo. È il modo perché Dio possa essere misericordioso e dire ma io ci rimetto sempre qui, hai voluto essere padre di questa marmaglia qui, adesso grattatela, l'hai fatta tu e te la tieni. È un modo benevolo di parlare con Dio, non è offensivo. È già previsto che noi imbarchiamo debiti e il Padre Eterno sovvenziona. Bene, allora nella Chiesa è tutto di tutti. I meriti di Gesù Cristo sono miei, tuoi, i meriti della Madonna, i grandi meriti dei santi, l'amore di Dio. Noi diciamo, Dio vuol bene a me ma non vuol bene a te, lascia perdere. Qui è patrimonio comune. E visto che siamo comuni nelle cose sante, in tutte queste realtà, i sacramenti sono le cose sante, la parola di Dio, tutta questa, chiamiamola attrezzatura che abbiamo, questo capitale, questa comunione delle cose sante serve per creare la comunione degli uomini e delle donne sante, ossia che fanno unità, per quello che dicevo prima, è la messa che ci unisce. Piccola parentesi, ma se, non vorrei che qualcuno di voi qui facesse questo mestiere, che è un bellissimo mestiere, crisi matrimoniale, e andate dal consulente di coppia, andate lì dove c'è il consultorio, quello cattolico, e mi raccomando, tutto giusto, ognuno faccia il suo mestiere, tutti hanno motivo di esistere e di fare. Ma io ti dico, ma vai da Gesù Cristo che ha sposato la Chiesa da 2000 anni a sta parte, e la Chiesa che siamo noi, gliene abbiamo fatte di corna e di... Io sono un po' di bocca larga, volevo dire puttanate, faccio puntini, va. E non l'ha mai mollata. La perdona, la recupera, la lava, e poi la ama più di prima. E beh, proprio quel che è capitato nella mia famiglia, tra me e mio marito, o tra me e mia moglie. E vai da Cristo e dice, come fai tu a stare insieme da 2000 anni con una donna del genere, che è la Chiesa, l'umanità intera? Dice, ragazzino, vieni qui che ti insegno il mestiere, perché il matrimonio, quello con la M maiuscola, è il matrimonio di Cristo con la Chiesa, è il matrimonio di Dio con l'umanità. Il matrimonio che vivete voi è una derivazione di quello. E allora, c'ho delle crisi matrimoniali, di a tua moglie, te Pippa, andiamo a confessarci così facciamo un bel bagno e tiriamo via le rogne che abbiamo detto. Andiamo a fare una bella dose di comunione, ma una cura ricostituente. Se dopo mesi e mesi neanche Cristo è capace di metterci insieme, beh, allora qui o dobbiamo dubitare di Dio oppure noi non funzioniamo. Sono le cose sante che tengono insieme, che tolgono le divisioni, gli odi, le fratture tra le persone sante che sono i cristiani. Ecco allora, credo la comunione dei santi. Nella Chiesa tutto è comune, in italiano communis, in latino con due M. Allora che dice? Dio è mio papà. E non è un capitale da poco. Gesù Cristo è il mio Salvatore, mio sposo, mio fratello. Lo Spirito Santo è il mio amore. Mi appartiene. E come facciamo a piangerci addosso come se fossimo dei pezzenti quando abbiamo come nostro il Padre Eterno Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la Madonna e gli angeli e i santi e la brava gente che ci ronza attorno. Ma noi ci rendiamo conto che viviamo da pezzenti, da pidocchiosi e siamo di una ricchezza che è incalcolabile. bisogna svegliare la fede e entrare in questi discorsi, dopotutto elementari, perché sono scritti nel credo. C'è un'altra cosa, dobbiamo dire qualcosa anche sulla remissione dei peccati, se no la prossima volta non riusciamo a finire tutto il credo. La remissione dei peccati, abbiamo detto questa sera, credo nello Spirito Santo. Una delle cose più vistose che deve operare lo Spirito Santo è la remissione dei peccati. A Pasqua Gesù entra nella comunità cristiana, alitò su di loro, perché lo Spirito Santo è l'alito di Dio, il respiro di Dio, dice: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui rimetterete i peccati saranno rimessi. Ossia, senza mezzi termini, Gesù Cristo dice: vi do lo Spirito Santo, vi do la vita di Dio, la potenza di Dio, e prima cosa da fare con l'opera dello Spirito Santo è di cancellare i peccati. Ecco allora che lo Spirito Santo, tra le cose primarie, la primaria di tutte, è questa: cancellare i peccati. Perché? Perché i peccati sono la morte dell'uomo come figlio di Dio, come creatura. E lo Spirito Santo è esattamente il contrario del peccato, perché Spirito Santo vuol dire vita di Dio. Il peccato ci fa morti, il contrario della morte alla vita di Dio, alla vita eterna, è lo Spirito Santo che è la vita di Dio, che è la vita eterna. Allora, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Quando si parla di perdono dei peccati, noi diciamo subito: ah sì, c'è la confessione. Ricordo, tanto per essere un pochino mirati, quando si parla di religione, no, guarda che lo stesso credo ti dice: professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Ossia, il sacramento contro il peccato, il sacramento per il perdono dei peccati è il battesimo. La confessione è un secondo battesimo. I padri della Chiesa la chiamavano la tavola di salvezza, che vuol dire un tronco a cui ti aggrappi quando la tua nave ha fatto un naufragio, è andata sotto, come un naufrago che sta lì attaccato a un pezzo di legno della nave galleggiante in attesa che venga qualcuno a salvarlo dal naufragio del suo battesimo. Ossia, ho sfasciato il mio battesimo, ho perso il contatto con Dio. La confessione, importantissima, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, ma per fortuna c'è. Prima però di arrivare alla confessione e ad altri mezzi per ottenere il perdono dei peccati, vorrei, nella brevità del tempo, dire qualche cosa sul peccato e sul peccatore e sul come Dio vede il peccato e come vede il peccatore. Allora, il peccato. Che cos'è il peccato? Credo che pochi sanno il vero significato di peccato, quello della Bibbia. Nella lingua ebraica, quella della Bibbia dell'Antico Testamento, peccato si dice attat. E cosa vuol dire attat? Faccio un esempio che forse riesco a spiegarmi bene. Se qualcuno di voi va a fare tiro a segno o tiro con l'arco, uno va, cerca di mirare in modo che la freccia o la pallottola vada a colpire il centro del bersaglio. E quello è tirare bene, avere soddisfazione: ho centrato, ho mirato, ho colpito il centro. Attat vuol dire, tanto per stare all'esempio della freccia o della pallottola, un proiettile che non arriva a colpire il centro del bersaglio a cui era destinato perché casca per terra prima, oppure perché va fuori traiettoria, a destra, a sinistra, in alto, in basso, comunque va fuori traiettoria, non colpisce il segno. Il peccato per l'uomo, che è come un proiettile, una freccia scoccata da Dio, che deve fare un viaggio e deve andare a finire, a tuffarsi, a colpire in centro il cuore di Dio, perché il paradiso è arrivare a planare, se volete, a entrare nel cuore della Trinità, ossia nel centro dell'amore di Dio che ci aspetta. Forse noi con altre parole diremo: amo una persona, me la stringo al cuore. Vabbè, insomma, il peccato è il non arrivare da Dio, non entrare nel cuore di Dio, che è il porto, l'approdo della nostra vita, o perché si casca prima o perché si va fuori il bersaglio e si va a perdersi nel niente, a disintegrarsi, e la nostra vita non ha più senso, non è arrivata a realizzarsi nel cuore di Dio, che era lo scopo della nostra esistenza. Quindi il peccato vuol dire mancare il bersaglio, che è il cuore di Dio, intendiamoci. E allora, peccato è una cosa seria. Sto sbagliando strada se non riesco a rimettere questa navicella spaziale sulla traiettoria giusta, va a perdersi. Noi oggi che abbiamo tutti questi attrezzi che volano verso Marte o verso altri pianeti più lontani, possiamo avere un'idea. Il perdono dei peccati è come riuscire a dare degli impulsi per rimettere nella traiettoria giusta questa navicella che deve arrivare lì il tal giorno, né un minuto prima né e scendere lì in quel posto preciso. Noi stiamo viaggiando nello spazio della vita per arrivare nel cuore di Dio Trinità. Il peccato è non arrivarci o rischiare di non arrivarci perché siamo usciti di traiettoria. Quindi il peccato è uno sbandamento, è uno smarrimento della strada. Uno deve venire a Bellusco e sbaglia strada, si trova a Brescia, invece deve fare due volte la strada. Ho perso la strada. Per quello che il Vangelo parla della pecora smarrita, invece di andare verso Dio si è persa. E se non va Cristo a prendersi sulle spalle a portarla a casa, quella non ci arriva più. Questo è il perdono dei peccati. Dei peccati noi abbiamo tanti concetti, soprattutto un paio. Molto a noi è stato presentato il peccato come macchia. Il battesimo toglie la macchia del peccato, porta questa veste candida senza macchia fino a... il Salmo Miserere dice: purificami, cancella la macchia del mio peccato. Ed è roba biblica, guai a noi metterla in discussione. Ma c'è un concetto più importante di quello che solitamente non lo si evangelizza molto, e per cui poi ci sono delle conseguenze veramente disastrose anche nella comunità cristiana. Dicevo prima, avevo anticipato, che il peccato è la rottura, altro aspetto, la rottura del padre, la rottura con il padre da parte degli uomini. E quando ci si rompe con Dio, ci si stacca da Dio, ricordate, Adamo ed Eva se ne andarono via da Dio insieme con il cattivo compagno, il demonio. Cosa succede? Il giorno stesso Dio dice: Adamo, Eva, incominciano le divisioni tra marito e moglie. La donna che tu mi hai dato è stata lei, se ne scarica barile addosso, è sempre colpa degli altri, ovviamente, e si continua con questa stupidissima abitudine. La donna dice: no, non sono stato io, ma è stato il serpente, ossia divisione, bega tra marito e moglie, ci si stacca, si rompe l'unità di coppia. Caino e Abele, senza stare a fare tante sottigliezze, diciamo, due fratelli nati da Adamo ed Eva, non si vogliono bene, anzi, uno ammazza l'altro. Un discendente di Caino: io mi vendico 70 volte 7, se uno mi fa una scalfittura io lo ammazzo, ossia l'escalation della violenza, tu mi fai un torto grande così e io ti tolgo la vita. Torre di Babele: costruivano una torre per arrivare su da Dio, non si sa se per onorarlo o per spodestarlo, andiamo a tirare giù Dio dal cielo e ci mettiamo noi al suo posto. A un certo punto non si capiscono più, begano, non sono d'accordo sul progetto, ognuno prende la sua giacchetta e va in giro per le parti del mondo il più lontano possibile da voi, perché con voi io non ci sto più. l'umanità che va a pezzi come l'esplosione di una granata. Lo Spirito Santo di Pentecoste viene a rimettere insieme l'umanità che era stata divisa, dispersa a causa del peccato. Il Vangelo di Giovanni, quando parla del perché Gesù Cristo è morto sulla croce, dice: Gesù Cristo doveva morire in croce per radunare i figli di Dio che erano dispersi, ossia ognuno per i fatti suoi, non comunità, ma l'uno contro l'altro armato. Quindi la morte di Cristo è perché gli uomini tornino ad amarsi e a fare unità. Lo Spirito Santo è l'unità, è venuto in terra perché gli uomini si vogliano bene e trovino motivo di unità tra tutti. Si dice ci vorrebbe una potenza soprannazionale, l'ONU non funziona, bisogna rifondarlo, facciamo l'ONU anche della finanza, perché le guerre del futuro non ci sarà neanche una pallottola, ve lo dico io, basta spostare dei capitali da una nazione alle altre e quelli crepano di fame nel giro di pochi giorni. Quindi le guerre saranno molto più sofisticate di quelle di adesso. E come facciamo? Creiamo l'unità politica. Facciamo l'unità politica, però ricordatevi che l'unità di una famiglia, di una regione, della Padania per capirci, e dell'Italia, dell'Europa e del mondo, o la fa lo Spirito Santo o è un guaio sopra un altro guaio. Perché senza lo Spirito Santo siamo capaci solo di dividerci, di odiarci e di farci del male. Ecco, allora abbiamo detto qualcosa del peccato. E il peccatore chi è? È uno che non si sente amato né da Dio né dagli altri. E cosa ha fatto Dio? Ah, stando a certi comportamenti nostri, Dio dovrebbe ammazzare i peccatori, così pulisce il mondo. Invece viene Gesù Cristo e dice: io mi metto dentro insieme con i peccatori, non perché sono peccatore, ma perché voglio essere solidale. Sono venuto per prendermi addosso io i vostri peccati e per distruggerli io sulla mia pelle. Un'altra volta qui abbiamo accennato al libro del Levitico, i capitoli 14, 15 e 16. In questi capitoli si parla anche della festa dell'espiazione del peccato. Lo ripeto, anche se ci sarebbero altre cose a cui dare spazio, ma perché è importante, se no non si capisce perché Cristo, morendo lui, ha distrutto i peccati dell'umanità. Dov'è il meccanismo, che logica c'è? Dio disse a Mosè e al popolo di Israele, accampato ancora nel deserto, ma poi questo rito lo facevano tutti gli anni, anche quando erano sedentari a Gerusalemme in Palestina. Voi tutti avete dei peccati e i peccati non mi piacciono, avete delle cattiverie e delle divisioni, liberatevi da questa roba, farete così, prenderete un montone o un caprone e lo metterete lì al centro dell'accampamento, ognuno degli adulti, quelli che hanno fatto dei peccati, va lì e scarica sopra questo animale i suoi peccati, in modo che i suoi peccati diventano di quella bestia lì, come quando noi prendiamo i sacchetti dell'immondizia e li mettiamo sul camion della nettezza urbana, ma il paragone è banale. E se li portano via loro, diventano loro, io ho la casa pulita. Quando tutti avranno scaricato i peccati su questo animale, sarà condotto fuori nel deserto e sarà lasciato morire o sarà sbranato dalle belve. Quando muore, muoiono anche tutti i vostri peccati che erano diventati suoi, perché con la morte uno non ha più né debiti né crediti. Facevano così e ottenevano il perdono dei peccati. Gesù Cristo è chiamato agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo, per ricordare questo rito tipico della religione ebraica. Il Vangelo dice: Gesù Cristo uscì dall'accampamento, dalle mura della città, fu ucciso fuori come l'agnello, il montone che portava via i peccati, doveva essere portato fuori dall'accampamento. e Gesù Cristo si è preso addosso tutti i peccati dell'umanità, dal primo uomo fino all'ultimo che esisterà, li ha fatti suoi. E quando è morto, sono morti con lui i nostri peccati che erano diventati suoi. Uno dice, ma la cosa non mi convince. Questa è la mentalità della Bibbia, questo dice la Bibbia, e non dobbiamo contestare la Bibbia, perché dobbiamo cercare di entrare in questa mentalità per capire i modi con cui Dio parla. E non dice, Dio deve parlare diversamente, ha già parlato, sei tu che devi adeguarti al linguaggio, alla mentalità di un popolo attraverso il quale Dio ha scritto la Bibbia. Comunque questo è il significato ed è bello. Allora Gesù Cristo è venuto e si è messo in mezzo ai peccatori, lui e i peccatori sono dalla stessa parte, è con loro, per loro, uno di loro, il primo di loro. Tanto è vero che Paolo dirà, Dio Padre ha fatto di Cristo non il peccatore più grande, peccato è diventato perché è stato coperto, sprofondato dai peccati dell'umanità. E quando celebreremo la Settimana Santa, lasciate stare i cinema americani, che sono delle boiate del cavolo. Cristo ha sofferto non perché c'erano romani e ebrei che lo picchiavano, è stato schiacciato sotto il peso dei nostri peccati, una coscienza da Dio, da uomo pulitissimo che deve ingoiarsi e prendere su di sé tutti i peccati dell'umanità. Quella è la passione di Cristo, il resto c'è, ma non facciamone uno spettacolo da macello. Ecco allora Gesù Cristo risponderà lui davanti al Padre dei nostri peccati, li fa suoi e dice pago io. Del resto cosa fate voi quando i vostri figlioli rompono e arrivano a casa le cose da pagare? Come fai? Con le buone e con le cattive devo pagare sempre io, no? Siamo figli del Padre Eterno, chi è che deve pagare alla fine? I figli rompono, il Padre Eterno dice, ma insomma tocca sempre a me aggiustare e pagare. È normale. Dico, se fanno così i genitori di questo mondo, mi meraviglierei che il Padre Eterno ci lasciasse lì quei debiti addosso. E allora, battesimo e confessione, sacramenti altissimi, bellissimi per il perdono dei peccati, l'incontro con il Cristo che ci perdona, l'unzione degli infermi, eccetera. Ma ci sono anche altri mezzi, che solitamente non vengono annunciati granché, forse anche per la paura che la gente con questi mezzucci ottiene il perdono dei peccati, a confessarsi non ci va più, tanto non ci vanno lo stesso. Quindi è una furbata proprio che ha dimostrato che non ha nessun senso. Lo dico a me prete, a lui, ai preti, ai vescovi, e alle volte cerchiamo di essere furbi ma non lo siamo. C'è la remissione dei peccati, scritta nella Bibbia, anche attraverso altri mezzi che non escludono e non tolgono nulla alla confessione. Si legge per esempio, prima lettera di Pietro, la carità copre una moltitudine di peccati. Il libro del Siracide dice l'elemosina espia, cancella, distrugge i peccati. Allora io faccio l'elemosina per amore del fratello, per la gloria di Dio. Signore, se sti 50 euro che do per un'opera di bene, se mi cancelli i peccati, insomma, sono contento. E come no? Dice, l'ho fatto scrivere io nella Bibbia. L'elemosina espia i peccati. L'elemosina è anche un'ora di volontariato per qualcuno che ha bisogno. Anche quello è fare un'opera senza un compenso, no? La carità, ossia l'amore, l'aiuto al prossimo, copre una moltitudine di peccati. La prima lettera di Pietro, ricordatevi che bene o male era anche il primo Papa, non credo che il Papa abbia insegnato delle balordaggini per tirarci fuori dal seminato. Le lacrime di un sincero pentimento cancellano i peccati. Ricordate quella donna che si rannicchiò piangendo ai piedi di Gesù e incominciò a bagnarli con le lacrime, a asciugarli con i capelli, e dice a questa donna è stato perdonato molto perché ha amato molto, non vedi, da quando sono qui non ha mai smesso di bagnarmi i piedi, di lavarmi i piedi con le lacrime. tu invece non mi hai dato neanche l'acqua per lavarmi le mani. È proprio vero, a chi si perdona poco, ama poco, parole dette da Cristo nel Vangelo. La manifestazione delle colpe a Dio, dice il Salmo, ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Mi hai perdonato il mio peccato. Credo che vi richiami alla mente qualcosa. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato per mia colpa, grandissima colpa, supplico la beata. Cosa vi risponde? Cosa ci risponde Dio? Dio Onnipotente ha misericordia di voi, perdona i vostri peccati e vi rimette sulla strada che arriva alla vita eterna. Eravate delle frecce, dei proiettili fuori traiettoria, vi rimette sulla strada giusta per andare a finire dritti nel cuore di Dio. Ma allora quella roba lì ha messa, perdona i peccati sì o no? È certo che li perdona. Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati. Se non li perdona, tiriamo via un pezzo di messa che andiamo più svelti. Ma, non ci sono ma, o perdona o non perdona. Dice qui, chi confessa a Dio Onnipotente i propri peccati, glieli perdona. Poi c'è anche l'emendamento della vita. Uno ha sbagliato e dice, Dio, adesso mi metto a camminare per la via giusta. Ecco, questo è già un modo per ottenere il perdono dei peccati. Ricordate il commento dopo il Vangelo di Matteo, dopo la preghiera del Padre Nostro. Perché se voi perdonate di vero cuore i vostri fratelli, anche il Padre vostro perdonerà a voi i vostri peccati. Se io perdono a te, automaticamente Dio perdona anche a me. Sono cose scritte nei Vangeli. E non lasciamole da parte sempre per paura che la gente col fai da te, con una preghierina, così non vanno più a confessarsi. Sono delle paure meschine, sciocche, ma sciocche, sciocche. Perché questi mezzi non solo non mettono in cattiva luce o fanno sparire la confessione, ma la esigono ancora di più. Lo dico e concludo, lo dico perché qualche giorno fa, parlando, facendo una conferenza su questi argomenti, alla fine uno fece questa obiezione. Allora, scusi, sa, se Dio mi perdona i peccati anche con questi mezzi, con un Padre Nostro, la parola del Vangelo cancella i peccati, eccetera, eccetera, allora io non vado più a confessarmi, ho detto. Guarda, tu hai proprio la logica del pelandrone. Faccio un esempio e poi non so spiegarti altro. Se capisci l'esempio, capisci tutto, e se no, la do per persa, chiudiamo e io vado a casa e tu vai a casa. Tu hai un momento di contrasto forte, di peccato, non lo so, di cattiveria con tua moglie. Come si fa a rapacificarsi? Insomma, si può incominciare magari con un mezzo sorriso, che è già, ti voglio bene, ho capito, vogliamoci bene, una carezza. Ti porto a casa, non so, una bargia di gelato, mezzo chilo, te, perché so che mangi il gelato, e non lo so, faccio tutte le cose che ti piacciono, e cominci a dire, beh, anche lei forse si scongela un po', e poi dice, vabbè, ci siamo dati un abbraccio, un bacio, e tutto è finito. Meno male, così stasera sono esentato da fare l'amore con mia moglie, così avremmo magari portato a compimento la migliore delle rapacificazioni, perché non c'è meglio di quello per. E dico, e secondo te sarebbe una furbata dire ho fatto una carezza a mia moglie così questa sera posso fare a meno di far l'amore con lei? La confessione è fare l'amore con Cristo, arrivare tra le braccia di Cristo. Tutti questi mezzi che la Bibbia insegna potrebbero essere considerati come dei gradini per arrivare al pianerottolo che è la confessione, dove incontriamo Cristo di persona. Ricordo che la nostra patrona d'Italia, Santa Caterina da Siena, diceva: la confessione è fare il bagno nel sangue di Cristo che ci purifica, ci lava via i peccati. Ripeteva quello che sentiamo in ogni messa: questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti, per la cancellazione, per lavare via, per distruggere i peccati. siamo fortunati, ma fortunati, ma fortunati. Se i sacramenti non ci fossero, dovremmo inventarli. Santa Teresina del Bambino Gesù dice: io ogni volta che andavo alla confessione tornavo fuori contenta, e più andavo a confessarmi e più ero contenta. Strano che molti cristiani, anche della diocesi di Milano, non abbiano ancora capito questo bellissimo sacramento. Uno dei vostri compatroni, il San Carlo Borromeo, si confessava tutti i giorni. Tutte le mattine, prima di celebrare la messa, e quando andava in giro a visitare non solo la sua diocesi, ma era mandato dal Papa anche in Svizzera, in Emilia, di qua e di là, c'aveva sempre una mula riservata per il confessore, il quale doveva andare col seguito ed essere sempre presente. Lui voleva sempre il confessore al seguito. Prima di celebrare la messa si confessava. San Leonardo da Porto Maurizio, un francescano, che è quello che ha avviato in Europa la pia pratica della Via Crucis verso il 1700, si confessava due volte al giorno, una la mattina e una al pomeriggio. Dice: ma quelli erano dei matti. Conclusione, per davvero, o erano matti loro ad andare spesso, o siamo matti noi ad andarci poco o mai. Se l'incontro d'amore e di intimità con Cristo, che è lo sposo definitivo della nostra vita, chi si rifiuta di far l'amore non so se è furbo o se è tonto. Noi alle volte siamo ammalati di tontaggine.